in primo piano. Buongiorno cari ascoltatori, i giornali italiani ovviamente dedicano molto spazio al federalismo, al piano casa, con molti commenti, molti approfondimenti, e oggi partiamo dalla Stampa, che dedica il fondo appunto al tema della casa. Il titolo è La partita del Premier a firma di Marcello Sorgi. Secondo Sorgi, il piano di Berlusconi nel giro di pochi giorni si sta trasformando in uno spartiacque, destinato non solo a dividere il paese e l'elettorato, che si prepara a una nuova e lunga campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee, ma anche a ridefinire la nuova identità del Premier, in vista del congresso fondativo del PDL del prossimo fine settimana, al quale congresso il Cavaliere si presenterà o con l'accordo in tasca che gli consentirà di rivolgersi all'85% degli italiani, proprietari di casa con un gesto concreto, mirato ad allargare gli spazi in cui vivono e in molti casi la loro stessa qualità della vita, oppure si presenterà con un nuovo cavallo di battaglia da agitare contro il partito del no, impersonato da Franceschini e dal gruppo dirigente del PD. Secondo Sorgi sulla Stampa, tuttavia, è possibile intuire la più probabile delle conclusioni dello scontro in corso sulla casa, specie se il governo, magari a costo di modifiche consistenti, insisterà per varare il suo piano per decreto. Nei 60 giorni previsti per la trasformazione del testo in legge assisteremo a ogni tipo di accuse e di rimbrotti dentro e fuori le aule del Parlamento. In questo modo, mentre milioni di cittadini aspettano di sapere cosa potranno fare dei loro alloggi, la casa promessa e quella negata serviranno a trasformare le prossime elezioni in un ennesimo e forse inutile referendum su Berlusconi. Così Marcello Sorgi sulla Stampa. Il Corriere della Sera invece dedica il fondo a un tema politico, anche se un po' slegato dai temi italiani, ritorno a sinistra, firma di Michele Salvati, il quale, osservando che il modello di sregolazione che è stato adottato nel mondo dagli anni 80 ad oggi funziona male e si sente l'esigenza di riregolare il sistema, si chiede se questa non sia un'ottima occasione per la sinistra. La sinistra, scrive Salvati, e mi riferisco ovviamente alla sinistra riformista, alla sinistra di governo, non ha forse sostenuto da sempre che il mercato può creare disastri e va strettamente regolato dallo Stato? Non dovrebbe allora disporre di buone credenziali per convincere gli elettori, duramente colpiti dalle conseguenze della crisi, che ha le carte migliori per governare questa fase? Sfortunatamente per la sinistra le cose non stanno proprio così. Le cose non stanno proprio così perché una buona parte del centro-sinistra europeo negli ultimi 10 anni si è spostato parecchio verso il lato del mercato, secondo Salvati. In altre parole, buona parte del centro-sinistra è stata presa in contropiede dalla crisi, proprio mentre stava attuando una svolta liberale per molti aspetti benemerita, ma che le impedisce di presentarsi in modo univoco come partito dei critici del capitalismo, come partito della regolazione e dei controlli, lasciando al centrodestra la oggi scomoda posizione di partito del laissez-faire, ostile all'intervento dello Stato. Ma, si chiede Salvati sul Corriere, il centrodestra europeo è poi veramente composto da partiti che sostengono il laissez-faire e sono contrari all'intervento dello Stato? Basti pensare a Sarkozy e Merkel e, da noi, a Fini e a Tremonti, per dare una risposta negativa a questa domanda. Gran parte dei partiti appartenenti a quest'area dello spettro politico, accanto ad una debole componente liberale, dispongono di una robusta componente tradizionalista, per intenderci Dio, patria, comunità, famiglia, che si presta molto bene ad essere giocata in tempi di difficoltà e paure. I politici più abili la giocano su piani e con toni diversi, Tremonti non è Bossi, ma indubbiamente con molta efficacia. Se tutto ciò è vero, ne segue che la grande crisi in cui siamo immersi difficilmente può essere usata come arma elettorale di uno schieramento progressista. Così Michele Salvati sul Corriere della Sera. E poi in tema di politica segnalo un articolo sul Giornale a firma di Luca Telese, intitolato Sorpresa, Vendola folgorato dal Cavaliere. Infatti Vendola ieri ha rilasciato una dichiarazione davvero sorprendente. Berlusconi è un individuo geniale. È una persona che ha veramente tratti strabilianti, un self-made man che riesce a costruire un'intera epopea della vita culturale nazionale. Insomma, questa è una dichiarazione da quasi da un fanatico di Berlusconi, invece l'ha pronunciata Nicchi Vendola, governatore della presidente della Regione Puglia, e secondo Luca Telese, in questo modo Vendola tenta di ritagliarsi un ruolo alternativo a PD e all'Italia dei Valori di Di Pietro. Insomma, vedremo se Vendola davvero vuol perseguire questo piano o è stata solo un'uscita estemporanea. Il giornale invece punta molto sulle le guide a servizio dei cittadini, in particolare annuncia le novità sul fisco, così le famiglie possono risparmiare. Vademecum per la dichiarazione dei redditi del 2009, consigli, regole e segreti per riuscire a pagare di meno. Due pagine dedicate a questo tema. E arriviamo al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ovviamente dedica molto spazio alle questioni economiche, al fisco federale, alle case, alle nuove regole che il governo americano e la Federal Reserve vorrebbero imporre sulla finanza americana. Ma dedica un commento in prima pagina, una riflessione su un tema molto italiano. Il titolo è «Quando nella scuola il sorteggio decide più del merito» e si riferisce a quanto avvenuto al liceo Volta di Milano, che ha deciso di mettere a sorteggio i posti disponibili per il prossimo anno scolastico. Ed è uno dei primi casi in Italia di un fenomeno già da tempo ampiamente diffuso in altri contesti. Il problema, secondo Alessandro Schiesaro, che firma questo articolo in prima pagina, il problema è reale perché i posti disponibili in una scuola sono un dato poco elastico, mentre la domanda di istruzione di qualità tende a salire. Non è facile predisporre soluzioni soddisfacenti. A Milano si è optato per il sorteggio, ma partendo dal gruppo di studenti che la scuola media di provenienza aveva designato come più idonei a frequentare un liceo scientifico. Si tratta, da parte del liceo, di una doppia abdicazione, secondo Schiesaro sul Sole. La prima abdicazione consiste nel basarsi sul giudizio espresso in uscita piuttosto che su una valutazione in entrata. Questo è un problema di fondo del nostro sistema educativo a tutti i livelli. La tendenza a privilegiare l'acquisizione di un titolo, o in questo caso di un giudizio ex ante, rispetto alla valutazione dell'istituzione presso la quale si chiede di entrare. Ma c'è una seconda abdicazione e risiede nel ricorrere al sorteggio anziché a qualche forma di valutazione per esami o per test. E qui entra in gioco un altro elemento che da qualche tempo connota in modo vistoso il panorama dell'educazione in Italia, ovvero l'inusitata propensione alla litigiosità e dunque molti ricorsi, polemiche, si ricorre ai tribunali. E per questo, secondo Schiesaro, non è difficile comprendere perché il liceo di Milano, alle prese con un problema tecnico non differibile, abbia deciso per la strada meno sofisticata e meno meritocratica pur di evitare o ridurre al minimo i rischi. Quel che è certo è che urge avviare una riflessione su come affrontare al meglio un problema a cui non eravamo abituati. Così il Sole 24 Ore questa mattina. E in tema di scuola segnalo invece il Messaggero, che fa un'inchiesta perché sul tetto del 30% che dovrebbe essere imposto nelle scuole, soprattutto a Roma, e che divide gli educatori. Roma, sui banchi di molte scuole è straniero uno studente su due, e prende il caso Pisacane, una scuola di Roma dove gli 80% degli alunni sono immigrati, e il che pone le famiglie italiane di fronte a un dilemma: bisogna restare oppure bisogna per cui tentare la via della multiculturalità, oppure, come fanno molti genitori, andare in un'altra scuola. Insomma, e il Messaggero dedica a questo tema molto spazio con un'inchiesta a firma di Francesca Lundberg. E invece in tema di immigrazione la Repubblica torna su una vicenda di ieri davvero sconvolgente: l'albergo in un tombino per i cinesi di Milano, e pubblica le foto di quello che Michele Serra sulla prima pagina di Repubblica definisce l'hotel Botola. Hanno chiuso l'hotel Botola a Milano in via McMahon 77. Lo hanno chiuso perché faceva schifo, perché era illegale, perché ci vivevano una sessantina di cinesi, clandestini per metà, naturalmente, anche bimbi piccoli, in condizioni igieniche indicibili, sdraiati tra assi di compensato e materassi fetidi, diciamo come topi. lo hanno chiuso perché l'ingresso non era quel che si dice a norma, un buco nel marciapiede, davvero era una botola in mezzo al marciapiede, incredibile. Ma a noi, scrive Michele Serra sulla Repubblica, scorrendo le incredibili fotografie mostrate dalla polizia, l'hotel Botola dice qualcosa in più, ci dice, o meglio ci ricorda, e ce lo ricorda con la rudezza della verità, che il provvisorio evo di prosperità e di decoro che questa parte del mondo, la nostra, ha vissuto in semi-isolamento, è in corso di ridiscussione. La pressione inarrestabile dell'umanità povera sta rimescolando tutte le carte e rilancia anche davanti ai nostri occhi, anche davanti a casa nostra, la percezione di una miseria energica e potente che arriva a contaminare e intorbidare, a confondere e a dolere. E secondo poi Serra evoca addirittura la Parigi di Hugo e Zola, la Londra di Dickens, insomma traccia un ritratto piuttosto sconvolgente. La Padania invece dedica molto spazio al federalismo fiscale, toni entusiasti, federalismo fiscale fatta, Bossi soddisfatto, penso che al Senato non ci saranno modifiche, si è lavorato molto, mentre altri due giornali di sinistra hanno toni diversi su Berlusconi. Secondo il Manifesto, Berlusconi è un casinaro che sul piano casa va in confusione e annuncia correzioni, mentre contro la crisi detta la sua ricetta, lavorate di più, e mentre secondo Liberazione Berlusconi è deragliato, lavorate di più è la ricetta di Berlusconi contro la crisi, l'ha detta appena sceso dal viaggio inaugurale del treno veloce, messa in scena ed ennesima provocazione per disoccupati e cassi integrati dopo l'invito a spendere e consumare. Insomma, la sinistra estrema che critica Berlusconi. Mi fermo qui per il traffico, ci risentiamo tra pochi istanti. In primo piano. Ecco, riprendiamo la rassegna stampa, continuo con i giornali di sinistra. L'Unità titola Presidenti del Consiglio e pubblica un divertente fotomontaggio in cui mostra Berlusconi con i diversi copricapo, da operaio, ferroviere, con la bandana, insomma abbastanza divertente come iniziativa. Invece andiamo su temi più seri, addirittura così drammatici, e cito Avvenire, che dedica un editoriale a un fenomeno di cui si parla poco, ovvero la crisi spaventa e fa lievitare le richieste di aborto. Secondo Avvenire ci sarebbe appunto un aumento degli aborti perché le donne non riescono a sostenere i costi di un nuovo figlio e per cui decidono questa drammatica strada. E secondo Francesco Riccardi di Avvenire, questo fenomeno rappresenta un fallimento della legge 194, che invece prevede che lo Stato aiuti le donne a cercare, anche con aiuti economici, di evitare ovviamente di ricorrere all'aborto. E Avvenire si chiede: ma quali tentativi vengono realmente svolti in questa direzione e da parte di chi? Secondo Avvenire è una sconfitta pesante che sta proprio nella mancanza di sussidi e provvidenza mirate alla maternità e alla primissima infanzia, e fa un raffronto con altri paesi auspicando che anche l'Italia si adegui alle norme di altri paesi, dando più soldi alle giovani mamme o future mamme in difficoltà. Così Francesco Riccardi su Avvenire. Invece il giorno dedica ancora spazio al riscatto del pugile, ovvero quel Carol Rax che dopo essere stato accusato ingiustamente dello stupro della Caffarella, ora da mostro diventa un divo in TV e addirittura a porta da Bruno Vespa. E su questo tema Libero pubblica un fogliettone, che è un articolo in fondo alla prima pagina, a firma di Davide Giacalone, il romeno innocente, non facciamone un eroe. Dice secondo Giacalone, chiariamolo subito, è ridicolo che uno dei romeni, quello con la faccia che avrebbe entusiasmato Lombroso, chieda di essere risarcito. E per cosa? L'ipotesi di subire la custodia cautelare è parte dell'essere cittadini in un paese che la prevede. E poi dice, parla addirittura di una discriminazione contro gli italiani, perché secondo Giacalone a molti italiani la gogna non è risparmiata neanche in caso di assoluzione, essendoci sempre un secondino travestito da giornalista pronto a scrivere già coinvolto in inchieste giudiziarie, mentre ora sarà tutto un accorrere umidiccio attorno al povero Romenuccio, di cui fecero il torto di credere che poteva aver fatto del male. Ecco, per cui insomma Giacalone su Libero critica lo spazio che ora viene dato a il romeno accusato ingiustamente dello stupro. Il foglio dedica una colonna alla crisi dei quotidiani, osservando che anche in America si profilano delle soluzioni pubbliche per salvare la stampa. Si levano molte voci, per cui l'America, che di solito in questo ambito non aveva mai fornito aiuti alla stampa, sta pensando di fare marcia indietro, altrimenti i giornali che già oggi sono in difficoltà rischieranno di morire. E la Francia, ad esempio, anche ha seguito questa via. Di Europa cito due commenti: il fine che non ti aspetti, a firma di Montesquieu, il bipolarismo ora è più forte, a firma di Giorgio Merlo, riferiti ovviamente da un lato alla fine di AN e al prossimo arrivo del PDL. Torno rapidamente a qualche quotidiano che ho già citato, ad esempio Il Messaggero, che pubblica un fondo di Paolo Savono, ha subito una nuova architettura globale, in cui critica l'atteggiamento dell'amministrazione Obama. Secondo Savona, la strada intrapresa dagli Stati Uniti è esattamente quella che ha portato alla crisi in ogni angolo del mondo. Non provengono infatti segnali di politici di un mutamento di architettura del loro sviluppo interno e di quello degli scambi globali. Anche l'amministrazione Obama punta alla ripresa della domanda aggregata via la riattivazione del credito, nonostante il persistente disavanzo corrente con l'estero, che staziona sui 700 miliardi di dollari. Se avrà successo, il fabbisogno crescerà e il resto del mondo non sarà più in condizione di finanziarlo a causa della recessione. Non basta quindi il riconoscimento dell'indispensabilità di un coordinamento globale per sconfiggere una crisi di pari estensione, se i contenuti di un eventuale accordo non affrontassero debolezza dell'architettura dei rapporti di cambio e degli scambi mondiali. Insomma, ci vuole una svolta strutturale, secondo Paolo Savona sul Messaggero. Dal Corriere della Sera: pena di morte, il record della Cina, sono stati solo 25 i paesi che nel 2008 hanno eseguito condanne capitali e il 72% si è concentrato in Cina. Sono due pagine dedicate a questo drammatico argomento. Ancora dal Giornale: il codice dell'umor, sono solo 8 le cose che ci fanno ridere. Si può ridere in 8 modi soltanto e nessuno di questi dipende da come siamo. E questa in sostanza la scoperta di Alistair Clark, un ricercatore evoluzionista inglese. E dunque, secondo il Giornale, può sembrare molto strano, ma pare si rida sempre per gli stessi motivi, e dunque vita dura per i comici innovativi. Ancora invece da Repubblica, il caso cancellati 79 paesi voluti da Mussolini, errore della riforma Calderoli che annulla le leggi istitutive, spariscono Sabauda, Le Tremiti e Sestriere. Insomma, questo caso che farà discutere, immagino. E poi un sondaggio di Ilvo Diamanti: biotestamento e preservativi, secondo la Repubblica gli italiani bocciano il Papa, e dunque saranno contrari alle posizioni espresse dal Papa e che hanno provocato molte polemiche nei giorni scorsi. Bene, io sono arrivato alla fine di questa rassegna stampa, vi do appuntamento a domani mattina alle 7:30 come al solito e cedo molto volentieri la linea ad Alessandro Milan.